con loro accendi, accendi anche una luce, spariscono i rumori, ti vogliono te stesso, se sei dentro vieni fuori, non chiedono dolcezze, non servono dolori. Con loro parli oppure ti abbandoni, magari ti addormenti, non hai bisogno neanche di dettare condizioni, poi lasci tutto il resto, comprese le emozioni, per stare solo o stare sempre con le ragazze affezionate, quelle subito dimenticate, stranamente emozionate, e per tutto il tempo dedicate, quelle che hai lasciato a una stazione, quelle che non rimani ad aspettare, quelle a cui non hai mai portato un fiore, quelle che non hai mai chiamato amore. E a loro chiedi, non temi le risposte, non senti una ragione, se capita uno sbaglio segui l'improvvisazione, se ti confondi il viso, se dici un altro nome e ti stupisci, a volte ti stupisci, se arrivano romantici e puntuali gli affettuosi auguri di Natale per chi non le ha trattate bene neanche male. Sono ragazze affezionate, quelle subito dimenticate, stranamente emozionate, e per tutto il tempo dedicate, quelle che hai lasciato a una stazione, quelle che non rimani ad aspettare, quelle a cui non hai mai portato un fiore, quelle che non hai mai chiamato.